La Francia si trova, dopo le elezioni di ieri, in una situazione veramente insolita. La Francia è stata caratterizzata da 10 anni da un sistema istituzionale estremamente solido ed estremamente prevedibile. Il combinato di un maggioritario a doppio turno con un presidente, della Repubblica molto forte, eletto direttamente dal popolo e quindi quasi un re repubblicano, ha permesso alla Francia di avere una grossa stabilità e una grossa prevedibilità dei risultati elettorali. Questo non si è verificato questa volta. Come sappiamo, ci sono tre blocchi più o meno della stessa consistenza, anche se quello che è prevalso è quello del Fronte Popolare. L'estrema destra e il centro hanno gruppi di grandezza simile. In questa situazione il sistema francese va in panne, non sa come rispondere, perché normalmente c'è un gruppo, grazie all'elezione maggioritaria a doppio turno, un gruppo che prevale sugli altri e che esprime il presidente del Consiglio, il primo ministro. E in questo caso quindi ci troviamo davanti a una situazione insolita in cui la Francia non si è mai trovata. Le possibilità sono tante, quelle principali sono tre. La prima è quella ovviamente di una coalizione. Già questo è inabituale, che i gruppi si trovino dopo le elezioni per contrattare la formazione del governo. Ecco, questo non si è mai presentato in Francia e forse i politici italiani della Prima Repubblica potrebbero insegnare molte cose a quelli francesi di oggi. È molto difficile che si arrivi a un accordo perché, oltre ad essere tre blocchi di grandezza simile, sono tre blocchi fortemente ostili uno all'altro e senza grosse sovrapposizioni programmatiche. Il programma del Fronte Popolare sostanzialmente è completamente contrario alle politiche di Macron degli ultimi anni e non ha alcuna compatibilità ideologica possibile con quello dell'estrema destra. Lo stesso si può dire per Macron, che non trova se non rarissimi punti di accordo col Fronte Popolare ed è assolutamente opposto a quello dell'estrema destra, anche se ci sono stati alcuni punti di contatto come sulla riforma, una riforma che toccava l'immigrazione. In sostanza gli accordi sono molto molto difficili. La seconda possibilità è quella di un governo di minoranza, come è stato per esempio quello sostenuto da Macron negli ultimi 2 anni. Però già è stato difficile con una leggera minoranza, come era in quel caso, riuscire a governare la Francia. In questo caso nessun gruppo si avvicina neanche lontanamente alla maggioranza. Il più grande, quello del Fronte Popolare, è a 182 seggi, ne mancano un centinaio per arrivare a una maggioranza o a una minoranza comunque sostenibile. Per cui se, come sembra, verrà, nominato un esponente del Fronte Popolare per fare il primo ministro, questo qui si troverà un Parlamento in cui i 2/3, grosso modo, del Parlamento sono contro e quindi possono fare una mozione di sfiducia e far cadere il governo. E la terza possibilità, anche questa estremamente, estremamente difficile, che non si è mai verificata in Francia, è quella di un governo tecnico, come quelli che abbiamo conosciuto in Italia, come Ciampi, Dini, Monti, Draghi, eccetera. Un governo tecnico che in questo caso si occuperebbe, secondo me, di fare quelle riforme istituzionali che evidentemente la Francia di oggi ha bisogno. Io penso anche a un possibile arrivo di un proporzionale, visto gli attuali rapporti di forza nel paese. Il maggioritario secondo turno appunto provoca risultati che sono ingestibili dal sistema istituzionale e probabilmente un governo tecnico che potrebbe a quel punto fare piccole riforme, mettere a posto i conti come sappiamo in Italia e poi tornare a votare l'anno prossimo, perché secondo la Costituzione francese non si può sciogliere la Camera prima di un anno. In ogni caso è estremamente difficile, al di là di questi scenari, prevedere cosa potrà succedere. Questo è già un segno di una crisi istituzionale, ma è anche un avviso per tutto il sistema politico francese. I prossimi anni saranno caratterizzati da una instabilità ricorrente, perché questa Camera, con i risultati che ha ottenuto, non potrà reggere a lungo, e quindi la Francia attraverserà, come è già successo ad altri paesi europei negli ultimi 15 anni, un periodo di instabilità e di trasformazione istituzionale.